Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, e buongiorno a Carmelo Lauricella che regge la parte tecnica e a Laura Vanossi in redazione. Andiamo a sentire i temi di cui ci occuperemo oggi. La voce racconta. Raccontaci la tua voce. Buone nuove dalla ricerca. Tiroide, sorvegliata speciale prima, durante e dopo la gravidanza. Oggi parliamo, lo facciamo ogni giorno, ma oggi vogliamo dar voce alla voce per farle una sorta di tagliando. Allora proviamo a pensare a lei come ad una macchina. Scopriremo che il paragone non è poi così azzardato, perché ogni volta che emettiamo un suono e articoliamo una parola si mettono in moto sofisticati meccanismi che nulla hanno da invidiare a quelli che permettono ad una Ferrari di rombare e correre in pista. Bene, della meccanica ci occuperemo dopo, ma per il momento focalizziamoci su alcuni aspetti che possono aiutare i nostri esperti di oggi a fare una prima valutazione. Intanto saluto e ringrazio la dottoressa Giovanna Cantarella che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Bentornata. La dottoressa Cantarella è foniatra e otorino laringoiatra all'ospedale policlinico di Milano. Dottoressa Cantarella, noi abbiamo scritto nel nostro sommario "La voce racconta, raccontaci la tua voce", perché indubbiamente ci sono degli elementi oggettivi e soggettivi da considerare. Tutti noi, anche se non siamo degli esperti, siamo però in grado di accorgerci se la voce ha delle defiance, diventa roca, si spezza, cala di tono, intensità, e al tempo stesso però tutti noi sappiamo bene per esperienza diretta che ci sono situazioni in cui la nostra voce sfugge al nostro controllo, ci tradisce e dice cose di noi che vorremmo nascondere, quando ad esempio siamo agitati, emozionati, imbarazzati. Allora, dottoressa Cantarella, è veramente un mondo di emozioni e di meccanismi che si mettono, no, insieme per far funzionare bene la nostra voce. Certo, la voce, come lei giustamente diceva, esprime le nostre emozioni, quindi al di là del significato delle parole che noi diciamo, c'è tutto un messaggio che noi trasmettiamo con le cosiddette caratteristiche non verbali della voce, cioè il volume, la tonalità, il ritmo, la melodia, le pause che utilizziamo, che esprimono i nostri sentimenti, le nostre emozioni e anche le caratteristiche della nostra personalità. Io vorrei riprendere il paragone. Immaginiamo allora che la nostra voce sia una macchina. Direi di provare a metterci alla guida e proviamo a cogliere alcuni segnali, come questi ad esempio. Rimango senza aria quando parlo. La mia voce mi abbandona nel mezzo dei discorsi. La sua qualità varia durante la giornata e di solito la sera è peggiore. Per parlare devo sforzarmi. Dottoressa Cantarella, questi possiamo definirli come gli aspetti fisici della voce. Che cosa nascondono e che cosa raccontano? Ecco, dimostrano che la produzione della voce richiede uno sforzo muscolare, uno sforzo respiratorio che è superiore a quello che sarebbe normalmente necessario. Questo perché evidentemente le nostre corde vocali non sono in buone condizioni fisiche, hanno probabilmente qualche patologia che impedisce una fonazione senza sforzo eccessivo. Ci sono anche quelli che voi definite aspetti funzionali della voce, ma tradotto in pratica? Tradotto in pratica, come lei sottolineava, per quanto riguarda l'autopercezione della nostra voce, abbiamo degli aspetti fisici e degli aspetti funzionali, nonché degli aspetti emozionali. Gli aspetti funzionali riguardano come funziona la nostra voce nel quotidiano. Pensiamo per esempio alle problematiche sociali, alle problematiche relazionali che può avere un manager, un dirigente d'azienda che magari in riunione, non potendo usare il microfono, non riesce a farsi sentire da tutti i presenti perché la sua voce ha un volume troppo basso. Ma pensiamo anche alla situazione difficile, imbarazzante della persona, della casalinga, di chiunque di noi che entra in un supermercato e magari deve ordinare due etti di prosciutto e non riesce a farsi sentire perché c'è un rumore di fondo che maschera la voce. Ecco quindi l'aspetto funzionale nell'utilizzazione l'uso funzionale della voce del quotidiano, e da qui poi deriva anche l'aspetto fisico, lo sforzo che mi richiede il farmi sentire, e l'aspetto emozionale, quindi come io vivo questa situazione di difficoltà. Per fortuna ci sono però degli accorgimenti da seguire per prevenire i problemi della voce, o tecniche da imparare per rieducarle, quindi metterla nella condizione di funzionare nel migliore dei modi, renderla, cari amici, anche più bella, più simile a noi. Per questo io ho invitato Ciro Imparato. Ciao Ciro! Ciao Nicoletta. Che finora ci ha ascoltato, ma io l'ho fatto proprio, l'ho messo all'ascolto perché ho da chiedergli diverse cose. Ciro Imparato, che è doppiatore, voice coach e autore di un libro molto interessante della Sperling che si intitola La tua voce può cambiarti la vita, ci aiuterà oggi a riconoscere il colore della nostra voce, e ci aiuterà anche ad avere con la nostra voce, insegnandoci anche delle tecniche, dei trucchetti, posso dire così, Ciro, anche o sono per sì, più o meno, poi vedremo meglio nel preciso. Per avere con la nostra voce un buon rapporto, per farla funzionare bene, ma soprattutto per avere una voce che ci rappresenta. Ciro, tu hai raccolto, no, hai evidenziato quattro colori che possono rappresentare un po' quattro tipi di voce, così? Sì, esattamente. Intanto tutte le cose dette dalla dottoressa sono assolutamente sacrosante, importantissime. Io credo che qualunque persona dovrebbe fare una visita foniatrica, perché la base di partenza della nostra produzione del linguaggio, insomma di quanto gli altri si capiscono, dipende proprio da come noi siamo in grado, con facilità, con scioltezza, agevolmente, di parlare. Parlare è un fatto assolutamente e unicamente fisico. Ecco, il punto importante è che noi abbiamo delle componenti fisiche della voce, che sono appunto, come diceva la dottoressa, sono il tono, il volume, il tempo, il ritmo, io ci aggiungo anche il sorriso. Fino ad oggi, ogni volta in cui si voleva migliorare la voce, si parlava di fare qualche cosa per avere una voce più bella. In realtà, tante volte avere una voce più bella non aiuta, perché quando uno ha una voce molto bella, molto impostata e si presenta, buongiorno signori, avrei bisogno di avere un piccolo accorgimento. Le persone, se ti vedono parlare così, ti sentono parlare così, probabilmente, ecco, perdi quell'aspetto funzionale, per l'appunto, della voce, perdi quell'aspetto dell'utilità. Perché la voce è uno strumento che deve lavorare a nostro vantaggio, e certo, deve metterci in condizione di essere accettati, di piacere, di comunicare i nostri sentimenti, di far capire che abbiamo un senso di bontà, di accettazione, che gli altri possono cogliere e che noi possiamo dare agli altri, possiamo ricevere. Tutto questo tante volte non lo facciamo perché siamo timidi. E quindi, mentre noi, quando abbiamo una relazione bella con nostra moglie, marito, figli, eccetera, eccetera, abbiamo questo bello insieme di sentimenti e di emozioni, che sono l'amicizia, ad esempio, l'empatia, no? Il senso di fiducia, oppure l'autorevolezza, oppure il senso di passione, così, ogni volta che parliamo con delle persone, invece, in forma di timidezza, quindi non siamo ancora sufficientemente a nostro agio, in quel caso lì perdiamo questa autenticità della voce e diventiamo quindi grigi. Quindi il grigio è quella voce brutta di quando uno dice delle cose molto belle ma con una voce che dice molto poco, tipo, beh sì, sono stato sicuramente alle Seychelles, è un posto che mi piace molto, te lo consiglio, è un luogo bello perché bella gente, un bel sole sempre, delle immersioni bellissime. Ecco, questa cosa qui, alla quale siamo ormai anestetizzati perché molti parlano così e nessuno si stupisce più, è una componente che deturpa pian piano la comunicazione, non solo fra noi e la nostra famiglia, ma fra tutte le persone che in qualche modo parlano la nostra lingua. Ho pensato, dopo tanti anni, che si poteva fare qualche cosa per restituire alle persone la capacità di generare, anche senza conoscere nessuno, quindi anche immediatamente appena conosciuta una persona, di generare gli stessi sentimenti che noi siamo capaci a generare quando abbiamo un buon rapporto da tempo con una persona. Quindi intanto ho codificato quattro colori prevalenti, sì, che sono il giallo, la simpatia, il verde, l'empatia, il blu, l'autorevolezza, e il rosso, la passione. Due colori negativi, che sono quelli che corrispondono alla mancanza di sorriso, che sono il grigio, l'apatia, e il nero, la rabbia, e insegno a esprimere questi colori attraverso un metodo che ha codificato l'insieme delle variabili della voce che, a seconda di come vengono miscelate, quindi volume, tono, tempo, ritmo, sorriso, a seconda di come vengono miscelate, esattamente come uova, zucchero, farina e latte in una torta, a seconda di come vengono miscelate, producono un sentimento o un altro. Ad esempio, se una voce di tono basso, volume basso, sì, tempo lento, pause esitanti, un sorriso dolce, credo che sia una voce che trasmette un senso, direi, di tranquillità, per la quale sono abbastanza tranquillo delle cose che dico, ma se in questo momento io comincio poi ad alzare il volume della voce e alzare anche il tono e avere un tono alto e basso, il tempo diventa più veloce e il sorriso aumenta, ecco che automaticamente sono diventato una persona che lavora in radio. Ma attenzione, sono la stessa persona di prima, con l'unica differenza che in questo momento sto usando diversamente le quattro componenti della voce. Questa cosa si impara in pochissimo tempo, perché è proprio scritto, è una matrice, e quello che ho chiamato il codice da Vinci l'avevano già fatto. Sì. E quindi l'ho chiamato il codice imparato delle emozioni vocali. Allora, noi ci affideremo a Ciro Imparato, basta parlare, vero Ciro? Tu riuscirai a dare alla voce dei nostri ascoltatori, che possono chiamare come sempre l'800-24-0024, un colore, ma si può quindi anche cambiare colore, dal grigio si può. Assolutamente sì. Questo mi piace molto. La dottoressa Cantarelle invece ci aiuterà a capire e spiegherà quelli che noi avvertiamo come problemi della nostra voce, la voce che si spezza, la voce che ha difficoltà a farsi sentire, quella raucidinina che tante volte avvertiamo, no? Il bisogno di schiarirci la voce, oppure proprio la fatica che avvertiamo quando parliamo, quando ci relazioniamo con gli altri. Il numero è verde, 800-24-0024, i messaggi come sempre 349-238-6666. Affidateci la vostra voce. Una mela al giorno. Lo spazio della mela al giorno, che generalmente è dedicata al benessere, oggi parla di ricerca, perché una bella notizia che segna un passo avanti nella terapia di due malattie rare infonde in tutti noi fiducia e ottimismo nei confronti di un ramo della medicina, quello della ricerca, a cui è affidato, lo sappiamo, un compito tanto delicato quanto fondamentale: trovare cause e possibilmente soluzioni per malattie complesse che possono fornire a loro volta modelli e strategie per la cura di malattie più comuni. Bene, ora è tempo di venire alla buona notizia, ce la facciamo raccontare dal professor Naldini, che è direttore dell'Istituto Telethon San Raffaele di terapia genica, che coordina gli studi di cui stiamo per parlare. Professor Naldini, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Guardi, la buona notizia è che finalmente cominciamo a provare queste nuove terapie che sviluppiamo in laboratorio dopo molti anni sull'uomo. È l'inizio, quindi non abbiamo un risultato da dare, il risultato della terapia ancora, ma la notizia è che finalmente possiamo cominciare a sperimentarla. Professor Naldini, io credo sia utile ricordare che la terapia genica si basa sul principio che ogni malattia causata da un'alterazione di un gene noto possa essere curata inserendo in vettori virali. Io me li immagino, professore, un po' come dei piccoli vagoni. Sì, esatto, guardi, questa è una bellissima immagine in fondo. I geni possono diventare delle medicine che noi veicoliamo dentro le cellule usando i virus. Questa è una procedura di ingegneria genetica in laboratorio, i virus si smontano e si rimontano, ovviamente devono perdere la capacità di dare malattia, ma mantengono la capacità di trasferire i geni nelle cellule. In questo caso sono le cellule staminali del sangue che noi modifichiamo, correggendo un difetto genetico che è alla base di queste malattie rare, e poi rinfondiamo nel paziente per poter in questo modo distribuire in tutti i tessuti attraverso il sangue il gene che mancava. Due sono le malattie rare, no? Di cui ci una è una malattia da accumulo, in cui è una leucodistrofia, una malattia del sistema nervoso in cui non si riesce a smaltire in modo corretto la mielina, che è l'isolante dei nervi. le cellule che non funzionano, in questo caso dopo essere state rimpiazzate con la terapia genica, raggiungono il sistema nervoso e vanno a smaltire questo materiale che si accumula, che altrimenti è tossico. L'altra è una malattia, è una immunodeficienza, cioè un difetto del sistema immunitario, e anche qui sono le cellule del sangue, quelle deputate all'immunità a non funzionare, che vengono rimpiazzate con le nuove cellule prodotte dalle staminali corrette. Professore, io ho aperto la nostra breve intervista dicendo che questa notizia porta nuova linfa alla fiducia che tutti noi riponiamo o dovremmo riporre nella ricerca. Credo che il punto importante è quello, spesso anche credo gli ascoltatori o i lettori sentono parlare di risultati della ricerca di laboratorio e con la promessa della terapia, si dice sempre ma quando comincerà la sperimentazione? Questa strada è una strada difficile, lunga, per i pazienti che aspettano la terapia è sempre troppo lunga, però arrivare al traguardo di cominciare la terapia e superare tutti gli ostacoli necessari a garantire la sicurezza dell'impiego, le corrette normative e quando si tratta di terapie soprattutto sperimentali come questa, è credo una buona notizia anche del fatto che si riesce a mettere insieme le forze e le risorse per fare questi progressi. Professor Naldini, grazie, ci ha dato davvero una buona notizia che ci fa vedere il futuro più roseo. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie mille, arrivederci. Pronto soccorso. Ancora andiamo a vincere! Andiamo a vincere ancora! E questo è il K2 italiano! Si guarda a sinistra, si guarda a destra e vince l'Italia! Quando la prima puntata in cui sono andato in onda era tragico perché a parte che proprio non riuscivo a respirare. Mi mette una pace, eh? Poi io rimango ipnotizzato, ha visto che ne so su, cioè, i primi 5 sono 1, 2, 4, 5, 6. E noi torniamo a parlare della nostra voce insieme alla dottoressa Giovanna Cantarella e a Ciro Imparato. Tra l'altro, dottoressa Cantarella, domani si celebra la giornata mondiale della voce. Ciro, tu lo sapevi, vero? E infatti è un invito a nozze e quindi noi ci portiamo avanti, dottoressa Cantarella, tante iniziative, tra l'altro anche un convegno aperto al Policlinico per i milanesi che vogliono capire e conoscere di più e più da vicino questo magnifico strumento. Certo, mi fa piacere ricordarlo, anche perché l'evento è aperto a tutta la cittadinanza, quindi ai professionisti della voce, a chi vuol saperne di più sui meccanismi che portano alla produzione della voce, a chi vuole informarsi sulla prevenzione e anche aggiornarsi su quelle che sono le tecniche attuali di cura dei disturbi della voce. Quindi domani alle 14 in aula Sforza nel Policlinico, via Francesco Sforza 35. Per i milanesi, ma ci sono delle iniziative un po' sparse per tutta Italia. Dottoressa Cantarella e Ciro, dovete aiutarmi. Allora, la dottoressa Cantarella dovrebbe sottolineare quali sono i sintomi, i disturbi, il disagio che possono farci capire che la nostra voce ha qualche problema, mentre a Ciro chiederei poi quali sono i difetti, tra virgolette, chiamiamoli così, che la nostra voce può avere e che naturalmente su questi noi possiamo lavorare e correggere, perché come diceva giustamente Ciro, noi ci rendiamo conto che la nostra voce in un attimo può generare empatia e complicità, ma può anche rovinare tutto se usata male. Quindi inizierei a sottolineare gli aspetti su cui è necessario lavorare. Dottoressa Cantarella. Ecco, diciamo che probabilmente io e il dottor Imparato abbiamo una visione un po' diversa del problema voce, nel senso che una voce non esteticamente bella, quindi non particolarmente piacevole da ascoltare, può essere comunque una voce anche funzionalmente valida, nel senso che l'aspetto che interessa di più al foniatra, al logopedista, dal punto di vista quindi medico, di come il paziente vive il proprio disturbo della voce, e la soggettività del paziente. Quindi una voce può essere alterata qualitativamente, ma non richiedere un eccessivo sforzo nella sua produzione e non provocare quindi tutti quei disturbi di affaticamento a cui va incontro il nostro paziente. Pensiamo per esempio ad un insegnante. Certo, quindi può essere sana ma non efficace. Ciro, volevi intervenire prima dei mercati, poi andiamo a sottolineare gli aspetti. Ciro. Sono totalmente d'accordo, probabilmente mi sono espresso male. Sono totalmente d'accordo, non è la bellezza di per sé, è proprio la capacità. Una voce esteticamente non bella, a volte è molto più bella di una voce esteticamente bella. Sì, perché sì, ma la voce che esprime emozioni e che si fa sentire, che funzionalmente è utile, è molto più bella di una voce estetica che... Speravo di averlo detto prima. No, ma io penso che la dottoressa Cantarella non volesse fare una puntualizzazione quanto sottolineare, e siete stati invitati tutte e due, il vostro ruolo complementare, perché noi oggi vogliamo occuparci della voce a 360 gradi. La pausa è stata lunga, ma intanto avete ascoltato voci diverse. Ciro, stanno arrivando diversi messaggi di nostre ascoltatrici che fanno naturalmente apprezzamenti sulla tua voce, ma ti voglio leggere quello di Anna che ci scrive: vorrei che mio marito avesse la voce di Ciro Imparato. Ultimamente invece gli è venuta la voce di Paperino. Ciro, fammi il miracolo. Gliela cambiamo. La voce, ammesso che la dottoressa Cantarella, uno prima va a farsi vedere per capire se questa voce di Paperino può essere il sintomo, dottoressa Cantarella, di qualche cosa che non funziona adeguatamente? Beh, insomma, sicuramente quando la voce cambia è opportuno farsi visitare e verificare che non si sia sviluppata una patologia, un nodulo, un polipo, una cisti, insomma. Ecco, mi dica quali sono i sintomi che devono spingerci a consultare il medico. Ma sicuramente una disfonia, cioè un'alterazione della qualità della voce che duri più di 10-15 giorni, deve spingerci ad una visita specialistica. Ma non solo questo, come dicevamo in precedenza, non è solo l'alterazione qualitativa della voce che definisce un malessere fonatorio. Il malessere fonatorio è anche legato alla fatica fonatoria, alla fatica determinata dall'usare la voce durante la nostra attività quotidiana, quindi anche semplicemente l'avvertire questo senso di fatica sempre più pronunciato, soprattutto a fine giornata, ci deve spingere dallo specialista. Ciro, ci occuperemo dei nostri ascoltatori, ma a proposito di fatica, tu che sei un attore, un doppiatore e soprattutto un voice coach, insegni delle tecniche per evitare questo affaticamento vocale? Sì, ma le mie tecniche passano attraverso aspetti motivazionali e psicologici, perché noi abbiamo una possibilità di recupero personale data da quanto ci piace parlare, da quanto ci troviamo bene nel parlare con gli altri, da quanto sentiamo piacevole l'atto del parlare, della produzione linguistica. Questa parte motivazionale è in grado di fare miracoli. Ad esempio, molte persone, ci sono alcune situazioni durante la giornata in cui sentono che la loro voce non li supporta, ma a volte non sono dei problemi di ordine medico, sono dei problemi di ordine psicologico. Quante volte ci capita di essere con una persona che ci intimorisce e la voce va via perché non riusciamo ad avere quella serenità psicofisica per cui i muscoli si tendono, poi alla fine è sempre un fatto corporeo, sì. Non è un fatto mentale, sempre costantemente un fatto medico, però è un fatto medico non dovuto a una patologia vera e propria, ma a qualche cosa di ancora energetico, che poi potrebbe, perché no, tutto può capitare, può anche sfociare poi in seguito in qualcosa di ancora più serio, però molto spesso la nostra voce non funziona come dovrebbe soltanto perché non siamo sufficientemente rilassati. E il rilassamento è la base di partenza di tutto. Il rilassamento parte fondamentalmente dalla certezza che noi abbiamo che quando noi parliamo verremo ascoltati. E infatti all'interno delle lezioni che faccio, dei miei corsi e del libro, insegno come fare a fare in modo che le persone percepiscano da subito che attraverso la tua voce tu comunichi qualche cosa di bello. Questo restituisce alla persona che parla un senso di forte autostima e di piacere di parlare, e quindi molto probabilmente la voce ritorna. Alberto ci chiama da Torino, poi andiamo a Messina da Pietro. Alberto, buongiorno. Sì, sono Alberto Mariscotti, buongiorno, chiamo da Torino. Io quando sento la voce di Ciro rimango sempre molto colpito, perché mi sembra comunque incredibile una voce di questo tipo. Volevo chiedere innanzitutto se era possibile avere un'analisi vocale del mio tono, e poi chiedere a lui se c'è un sito internet dove è possibile leggere magari alcune cose su di lui, o eventualmente capire come fare un suo corso di dizione, giusto, perché questa voce mi sembra incredibile, per cui... E Alberto, la sua le piace? Ma non lo so, vorrei che me lo dicesse Ciro, perché insomma mi sembra veramente un ottimo vocal coach da quello che sento. Ciro, sì. dammi un giudizio sulla voce Alberto. Allora, Alberto ha una bellissima voce verde, che è la voce dell'empatia, della fiducia, la voce che crea clima, è una persona quindi evidentemente rassicurante. Ha una buona componente anche blu, perché è rassicurante e in grado quindi di entrare in un clima con l'altra persona, ma contemporaneamente, da cosa sento, ha anche una grossa capacità di trasferire un senso di professionalità e competenza. Ci aggiungerei un pizzico di sorriso in più, perché il sorriso è quella componente che ci aiuta nel parlare con gli altri a raggiungere, come dire, immediatamente il cuore dell'altra persona, che è quello che ci interessa, perché non dimentichiamoci che parlare va bene, ma gli altri sono la cosa più preziosa che abbiamo. Se noi parliamo con gli altri e abbiamo persone con le quali scambiamo sentimenti, la vita diventa sicuramente più bella. Tutte queste cose, grazie Alberto per aver fatto anche questa domanda, sono contenute all'interno del sito lavoce.net, del sito del libro La tua voce può cambiarti la vita. E poi dei miei spazi di Facebook, basta cercare Ciro Imparato. Insomma, e facilmente si trova. Intanto noi l'abbiamo a disposizione qua all'824 0024, andrei a Messina. Ci aspetta Pietro, buongiorno. Pietro? Buongiorno. Buongiorno Pietro. Senta, io volevo chiedere questo. Io, come lei sente, ho la voce molto rauca, una voce sporca. Sì. Sono stato operato alle corde vocali un paio di anni fa. Sì. E avevo una ciste mucosa che è stata spostata. Il medico, un po' così sulle righe, mi aveva consigliato di fare un po' di logopedia. E Pietro, lei l'ha fatta? Non l'ho mai fatta. È sempre così. Non mi è sembrato molto convinto. Potrebbe servire, dottoressa Cantarella, quando dopo un intervento, ma lo notiamo anche a seguito di interventi ortopedici, il medico dice deve fare un percorso di riabilitazione, e molte persone non seguono il consiglio del medico, e quindi alla fine poi si trovano magari con dei problemi che avrebbero potuto prevenire ed evitare affidandosi a del personale esperto. Ci sono proprio i riabilitatori in quasi in tutte le discipline, compreso, pensa ai logopedisti, che avrebbero potuto occuparsi della voce di Pietro. È ancora in tempo? Ma sicuramente, sono assolutamente d'accordo, la terapia riabilitativa, la terapia logopedica è essenziale dopo la maggior parte degli interventi di fonochirurgia. E nel caso del signor Pietro si ha l'impressione di una rigidità della corda vocale, probabilmente c'è una cicatrice un po' rigida che fa sì che la corda vocale operata non vibri esattamente come l'altra. Quindi una terapia logopedica può aiutarlo con dei meccanismi di compenso, con un migliore uso del supporto respiratorio, ad avere una voce un po' più pulita, un po' più efficace, un po' più proiettabile a distanza. Quindi sicuramente importantissima la terapia logopedica, e si può fare anche a distanza di anni dall'evento lesivo, dall'evento traumatico. E noi torniamo ad occuparci di voce insieme ad Ettore, che ci chiama da Brescia. Buongiorno Ettore. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo fare una domanda. Allora, sono un cantante, non famosissimo, però faccio, diciamo, alcune serate nei locali. Sì. La mia domanda era questa. Dunque, quella dell'emozione mi viene da ridere, perché sono 3 anni che canto e mi capita spesso di avere magari delle serate dove in certi locali c'è più pubblico, mi va via la voce, incomincio a avere questo, noi lo chiamiamo, non so, questo continuo bisogno di pulirla, ma alla fine poi mi accorgo che quando poi la serata parte passa l'emozione, però mi colpisce che ancora adesso, nonostante io pensi di non essere emozionato, la voce mi fa capire invece che lo sono. E poi la seconda domanda invece è più importante, questa vorrei approfondire se potreste aiutarmi. Io mi accorgo che inizio a cantare, dopo un po' mi fa male la gola, mi fa male abbastanza, sento quasi come pungere. Questo però dopo un attimo mi va via, cioè non so se è perché non l'ho scaldata prima, se c'è un metodo per poterla scaldare, non so. Allora, una risposta dalla dottoressa Cantarella e da Ciro Imparato. Dottoressa Cantarella, i fastidi che ci descrive Ettore potrebbero essere spia di un problema alle corde vocali o all'apparato oratorio? Il disturbo a quanto pare poi sparisce abbastanza rapidamente. Sì. Potrebbe essere in parte forse legato anche a questo stato emozionale che giustamente sottolineava il signor Ettore. I disturbi emozionali per quanto riguarda le patologie della voce incidono nella mia esperienza quasi sul 50% delle problematiche vocali che ci riportano i pazienti, però può anche darsi invece che ci sia un problema tecnico o un problema, come sottolineava Ettore, legato ad un riscaldamento vocale non adeguato prima di iniziare la sua esibizione. Allora, noi intanto lo ricordo ai nostri ascoltatori, abbiamo riportato, metteremo sul nostro sito il decalogo della voce che ci ha fornito la dottoressa Giovanna Cantarella, che serve comunque a tutti, un po' come prevenzione e come attenzione. A Ciro, prima di salutare la dottoressa Cantarella e lui e dedicarci al prossimo tema, vorrei chiedere un consiglio che valga un po' per tutti, per rendere più colorata la nostra voce, quindi la nostra vita. Abbiamo sottolineato l'aspetto dell'emozione quando non siamo, quando siamo in, magari in soggezione con la persona che abbiamo di fianco, di fronte. Cosa possiamo fare? Un consiglio. La prima cosa è che bisogna sapere bene che la voce può cambiare. Noi possiamo veramente fare delle cose per cambiare la voce. E è importante fare proprio attenzione a come parliamo. Molte persone lavorano ad esempio nei call center e si truccano al mattino, si guardano e non si registrano, non sanno che voce hanno, nessuno di noi sa che voce ha, il che significa che non abbiamo la possibilità di parlare con consapevolezza. Se io vado a una serata e sono ben vestito, mi guardo e dico guarda, sto bene questa sera e mi sento più sicuro di me. Se tu chiedi alle persone ti piace la tua voce? Il 100% o quasi delle persone si dividono in due categorie, chi dirà la voce non mi appartiene, chi dirà la mia voce non mi piace. Allora il consiglio è cominciare ad ascoltarsi, cominciare a registrare i propri modelli di riferimento, quindi qualcuno che ci sembra parli molto bene, e soprattutto, in questo caso io non posso altro che consigliare fra gli altri libri il mio, perché ho scritto un metodo che è un metodo nuovo, perché questo libro nasce dalla tua esperienza. Sì, da un'esperienza un po' strana, perché forse sono uno dei pochi ad essere, ho una collega tra l'altro in ADAP che ha lo stesso tipo di formazione mia, che è Laura Merli, ma nasce da questa cosa qui, dal fatto di aver studiato psicologia e dal fatto di aver usato la voce professionalmente. Ho messo insieme queste due cose e unito shakerandole e voilà. Allora io ringrazio la dottoressa Cantarella per essere stata con noi. Ricordiamo domani la giornata mondiale della voce, il decalogo lo trovate sul nostro sito. Ringrazio Ciro Imparato. Grazie a voi e speriamo di sentirci presto, sempre con una voce piacevole. Grazie. Assolutamente, come la tua, Nicoletta. Grazie, e questo è un master. Grazie ancora. Buona giornata, dottoressa Cantarella. Arrivederci, buona giornata. E noi dedichiamo l'ultima parte della nostra trasmissione alla tiroide, ghiandola di cui abbiamo parlato più volte e a cui è dedicata una giornata il prossimo sabato 17 aprile. Parola d'ordine, o meglio il tema della giornata, la prevenzione. Noi sappiamo, gli ascoltatori di Essere Benessere lo sanno bene, che la tiroide predilige un po' noi donne, per questo le associazioni dei pazienti col patrocinio della dell'Associazione Italiana della Tiroide, della Società Italiana di Endocrinologia e dell'Associazione Medici Endocrinologi, hanno deciso di concentrare la loro attenzione e il loro impegno per far crescere la cultura della prevenzione riguardo alle patologie della tiroide che possono insorgere prima, durante e dopo la gravidanza. In linea con noi è tornato a trovarci il nostro professor Pontecorvi, ordinario di endocrinologia presso l'Università Cattolica di Roma, Policlinico Gemelli. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Professore, per le donne devono tenere sotto controllo l'attività della tiroide sempre, ma in modo particolare prima della gravidanza, poi andremo al durante e il post. Perché? Quali sono gli esami e i valori che permettono di avere un quadro della situazione? L'esame potrebbe essere uno solo, misurare il TSH, sì, che è l'indice più sensibile che ci rivela se la tiroide sta funzionando o troppo poco o troppo. Ed è importante saperlo questo prima di iniziare una gravidanza, perché è stato chiaramente dimostrato che se la tiroide funziona di meno nei primi mesi di gravidanza, questo può creare futuri problemi al nascituro con una riduzione lieve ma significativa del quoziente intellettivo. Infatti, professore, voi avete fatto una ricerca in cui dimostrate chiaramente, ma lei ce l'aveva già detto durante le nostre trasmissioni, l'importanza della tiroide in tutta la vita fetale, e il vostro studio prova in un certo senso che gli ormoni prodotti da questa ghiandola sono, possiamo definirgli, degli ingegneri del patrimonio neuronale del bambino? Esattamente, è la prima dimostrazione effettiva che dimostra che gli ormoni tiroidei materni riescono ad attraversare la placenta e ad agire su diversi organi e diverse cellule del feto ancora prima che il feto cominci a produrre i propri ormoni tiroidei. Questo accade nel topo nella decima, undicesima, dodicesima giornata di vita, che più o meno corrisponde ai primi 3 mesi di gravidanza dell'uomo. E quindi nei primi 3 mesi di gravidanza, quando ancora il feto non ha sviluppato i propri ormoni, sono molto importanti gli ormoni materni. Ecco perché bisogna controllare la tiroide in questo periodo, ed è quello che andremo a fare sabato a Roma e in tante altre città d'Italia. Professore, però la tiroide va anche controllata dopo il parto. Sì, e questa è un'informazione che voglio dare alle mie ascoltatrici, è un'informazione molto importante. Professor Pontecorvi, mi aiuti a spiegare perché? Perché? Perché oltre il 5% delle donne che partoriscono sviluppano una disfunzione tiroidea. Questo è il motivo per cui le malattie della tiroide sono molto più frequenti nelle donne che negli uomini. In particolare si chiama tiroidite del postpartum e può causare anche questa o una iperfunzione della tiroide o una riduzione della funzione della tiroide ed essere una concausa della depressione del postpartum, che è molto nota a tutte le nostre radioascoltatrici donne. Direi, dopo i consigli, gli appuntamenti, e in occasione della giornata della tiroide in 40 centri di endocrinologia sarà possibile effettuare uno screening tiroideo, quindi ecografie e prelievo. Direi che questa è una buona opportunità per chi vuole fare un tagliando alla tiroide e anche una bella occasione per i medici, perché i dati che verranno raccolti nelle città di Roma e Verona daranno origine a nuovi filoni di ricerca. Voglio che a raccontarvi questo bel progetto sia la dottoressa Dominique Van Doorn. Buongiorno dottoressa. Buongiorno e grazie di aver dato voce, come diceva prima, alle associazioni dei pazienti che rappresento. E la dottoressa Van Doorn è endocrinologa e segretario del comitato scientifico dell'Atta Lazio Onlus e coordinatrice di tutte le associazioni dei pazienti con endocrinopatie per l'AME, che è appunto l'associazione che dà il sostegno e organizza la giornata. Dottoressa, noi abbiamo 30 secondi. Questi 30 secondi vogliamo rivolgerti vogliamo raccontarli e spenderli per sottolineare il prezioso ruolo delle associazioni. Le lascio la parola. Grazie. Le associazioni hanno fortemente voluto questa giornata nazionale della tiroide per sensibilizzare l'opinione pubblica e l'istituzione sull'importanza di un buon funzionamento della tiroide a tutte le età, dal neonato all'anziano e nella donna in gravidanza, come diceva il professor Pontecorvi. Questa giornata avrà luogo in 40 città e si organizzeranno degli screening, cioè delle ecografie delle visite gratuite e talora anche dei prelievi. Dei prelievi. Sì. Abbiamo tutte le indicazioni sul sito www.giornatadellatiroide.it. Ringrazio la dottoressa Dominique Van Doorn e il professor Pontecorvi per essere stati con noi. Grazie a tutte e due. Grazie. E buona giornata a chi ci ha ascoltato. Appuntamento come sempre a domani, dopo il GR delle 11.